E sono nato a Muri, però vivo qua a Lizzana adesso. Da quanto tempo mi ricordo? 30 anni. 30 anni. Cosa Tanto. Fa la vita? Cosa fa, Pensionato, per esatto, fortuna. gli rispondo così. Da giovane? No, prima andavo col camion. Ah, camionista? Allora, sull'ambito del camionista, lei si muoveva. Solamente in Italia. Ah, ok, quindi territorio, diciamo. Ma in Italia, tutta Italia o No. no? Ok, solo. Alta. Nord, più che altro. Nord. Da Milano fino a Bolzano, da queste parti qua. Le piaceva la vita da camionista? Come, Bellissima. vero? Anche a me piace lo spirito del camionista, non so perché. Secondo me, magari. Bisogna essere prudenti, ma Sì. Io vengo a dormire a Lizzano e a mangiare dopo. Sono sempre a Muri perché ho la compagnia, la via. Anche Quindi lei è qua a Lizzana perché sua moglie è di Lizzana? Anche quello. quello è un po'. Che rumore sente lei la mattina? Si sveglia? Magari i primi rumori che sente, o comunque anche uscire così, passeggiare, una roba che sente ogni mattina Qualcosa di ripetutamente. particolare. Mi piace tutto. Sì? Dagli animali ci sono i cani che abbaiano, le fabbriche, perché ci sono delle fabbriche, perché abito qua nei condomini. Però Si dopo vive parto, bene? vado in. Fino adesso sì. Sì?